Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis, benvenuti a Mr. Kilowatt. Questa è l'ultima puntata prima della pausa estiva. E allora iniziamo a respirare un po' di aria di mare. Mare che, come sapete, è attraversato ogni giorno da migliaia di grandi navi, principalmente navi da trasporto, ma poi ci sono anche le navi da pesca e le grandi navi da crociera. Ed è proprio da queste ultime che partiamo per raccontarvi alcune delle iniziative che si stanno intraprendendo in questo settore. Parliamo di grandi navi lunghe 200-300 metri con motori che esprimono la potenza di un centinaio di automobili di Formula 1 e poi con migliaia di persone a bordo, delle vere e proprie piccole città galleggianti. Allora saliamo su una di queste grandi navi di costa crociere, dove spesso si trova a lavorare beato lui, viene da dire, Vincenzo Galati, che è Energy Manager di Costa Crociere, e gli ho chiesto di spiegarci che cosa hanno fatto, a partire da alcuni interventi sullo scafo. Ascoltate. Principalmente quando si parla di ottimizzazione dello scafo di una nave, abbiamo un piano di azione per l'applicazione di pitture siliconiche che permettono sostanzialmente, impediscono alla vegetazione di attecchire allo scafo della nave. Anche le tradizionali pitture avevano una funzione simile, ma rilasciavano comunque una quantità di prodotto nel mare. Queste sono pitture che vetrificano e impediscono la vegetazione di ancorare. Insomma, evitate di trovarvi le cozze attaccate allo scafo. Non soltanto i mitili, ma anche alghe. Vegetazione più piccola, anche alghe, perché vengono praticamente lavate via dal motore della nave. Tra l'altro è un problema che riguarda anche le eliche. Le eliche vengono pulite con una frequenza fissata per ottimizzarne il profilo, perché comunque le eliche funzionano un po' come le ali per gli aerei, per noi, nel senso devono essere profili estremamente efficienti. E più che dalla vegetazione vengono liberati da calcificazioni che si formano durante l'utilizzo mediante apposita pulizia che facciamo con cadenza periodica. Per darle un'idea, la pulizia che noi facciamo sulle eliche apporta a dei risparmi nei consumi per la propulsione dedicata all'elica intorno allo 0,5-1%, e le pitture invece siliconiche portano a un risparmio su medio periodo del 3-4%. D'accordo, che comunque non è poco, insomma, no? Ecco, senta, dicevamo di tutto il sistema di climatizzazione, riscaldamento, illuminazione, questa piccola città galleggiante, lì come si interviene per ridurre i costi? Un grosso piano di intervento noi, per quanto riguarda il condizionamento, lo abbiamo fatto negli ultimi anni a partire da una gestione ottimizzata dell'impianto stesso, quindi ottimizzando comunque dei parametri che già erano propri del sistema, ma soprattutto mediante l'adozione massiva di strumenti che sono comunque relativamente nuovi in campo navale, che sono gli inverter, che sono macchinari che permettono di modulare i motori elettrici installati a bordo per permettere di ottimizzare comunque l'energia assorbita. Fanno più o meno lo stesso lavoro che fa l'acceleratore in un'automobile, diciamo. Regolano la velocità a cui girano questi motori. Cioè, in pratica questo cosa vuol dire? Che voi pompate in giro che cosa? Aria fresca, acqua, eccetera, eccetera, consumando meno energia. Esattamente. È questo, no? Utilizzando quanto richiesto. Senta, un'altra voce che credo sia abbastanza importante è la produzione di acqua, perché qui parliamo appunto di più di 1000 persone, quindi ne consumeranno tanta di acqua dolce, e voi invece siete circondati dall'acqua salata. Qui come si fa a ottenere acqua dolce a, insomma, costi energetici tollerabili? Per la produzione dell'acqua dolce noi a bordo abbiamo due sistemi differenti. Il primo è un sistema che si basa sul recupero del calore prodotto dai motori, sostanzialmente, attraverso un sistema di evaporatori, al quale si affianca un altro sistema di salatori osmotici che sfruttano il principio dell'osmosi per poter produrre dall'acqua del mare acqua dolce. In pratica sono delle membrane, no? Sono delle membrane che funzionano un po' come la pelle dei pesci, all'incontrario, permettono di fare passare il liquido trattenendo i sali e tutte, diciamo, le impurità, sono batteriologicamente pure comunque come filtrazione. Cambiamo argomento, ma solo parzialmente, perché l'efficienza energetica in campo navale si fa anche in porto. Una cosa che per esempio poche persone sanno è che in quasi tutti i porti le navi si devono produrre da sé con i generatori di bordo l'energia elettrica necessaria a tutte le attività. Pensate per esempio al carico e allo scarico. A Genova però si sta mettendo a punto un sistema di elettrificazione delle banchine, un'operazione che sta avvenendo con la collaborazione del gruppo Ignazio Messina, è un gruppo armatoriale che opera nel campo dei grandi trasporti marittimi. Ho chiesto a Ettore Navone, che è direttore del Corporate Development del gruppo Ignazio Messina, che cosa si aspettano di ottenere dall'elettrificazione delle banchine del porto. Ascoltate. Gli armatori fanno questa scelta sostanzialmente per due motivi. Il primo motivo è quello di poter avere fonti di energia a più basso costo durante le soste in porto. Il secondo motivo è quello di abbattere le emissioni che i motori termici dieselgeneratori a bordo delle navi producono. Un ulteriore vantaggio è quello legato alla riduzione dell'usura dei motori per minori ore di funzionamento durante la sosta in porto e quindi di aumentare la durata e ridurre i costi di manutenzione durante l'intera vita della nave. Ecco, però qualcuno si potrebbe sorprendere che si sia aspettato il 2011 per elettrificare le banchine dei porti. Perché non si è fatto prima? Le tecnologie a disposizione precedentemente non erano adeguate a soprattutto il passaggio da una frequenza di terra alla frequenza necessaria a bordo, che tra l'altro è anche una frequenza diversa da nave per nave. La tecnologia attuale consente di fare questo e quindi questi nuovi sistemi sono oggi adatti a servire tutte le diverse tipologie di navi che hanno una frequenza tendenzialmente di 60 Hz rispetto alla frequenza di terra che è 50 Hz. Bene, ci fermiamo qui e questa volta ci salutiamo perché questa era l'ultima puntata prima della pausa estiva. Da settimana prossima andranno in onda le repliche di Mr. Kilowatt. Grazie a tutti voi ascoltatori che ci avete seguito durante questi mesi. Abbiamo cercato di raccontarvi come sta cambiando, come si sta trasformando il mondo dell'energia. Riprenderemo a farlo a settembre, ma per intanto non ho che da augurarvi una buona, un'ottima estate. Buone vacanze a tutti, a risentirci.